Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuovo appuntamento con il mondo della scuola, bentrovati ancora da Mirko Cavallini studio e di Daici in regia. Ritroviamo con piacere il professor Lino Sartori, bentornato. Buongiorno, grazie a voi. Dunque, con lei oggi affrontiamo un tema di ampio respiro filosofico-giuridico, che è il tema dell'educazione, ma proprio a partire anche dai testi di legge, la Costituzione in primis. Tecnicamente si chiama culpa in educando, cioè la colpa nell'educazione. Si parla proprio di responsabilità dei genitori. Sì, se volete partiamo da un fatto concreto, così a tutti diventa chiaro di che cosa si tratta. Allora, la Suprema Corte di Giustizia italiana, la Corte di Cassazione, esattamente 11 mesi fa ha emanato una sentenza che nel mondo giuridico fa molto discutere, ha fatto discutere, per dire anche qui nel Tribunale di Treviso si sono aperte, accesi riflessioni su questo tema, ma che a mio avviso non ha ancora sensibilizzato sufficientemente gli educatori, i genitori in primo luogo. Racconto il fatto. Alcuni mesi fa un ragazzo adolescente stava giocando a calcio, quindi due squadre regolarmente in campo. Durante una pausa del gioco, un ragazzino dà una testata molto violenta sulla bocca di un compagno della squadra avversaria, il quale compagno finisce in ospedale, viene curato, eccetera. Che cosa succede? I genitori del ragazzo colpito sporgono denuncia contro la famiglia del ragazzo colpevole. Che cosa è accaduto? Voi sapete, in Italia ci sono tre gradi di processo. Nei primi due gradi la famiglia del ragazzo colpevole è stata assolta, ma nel terzo grado, il grado della Corte di Cassazione, quello definitivo finale, la sentenza è stata completamente ribaltata ed è su questo che vogliamo ragionare. Allora, qual è stato il ragionamento dei primi due gradi di giudizio? È stato questo. Certo, è vero, il fatto di colpire con la testa un compagno procurandogli male anche piuttosto grave è una cosa deplorevole, ma i genitori di quel ragazzo non erano presenti alla partita, per cui non potevano fare nulla per impedire che ciò accadesse. Ecco, ragionando in questo modo, i due primi gradi di giudizio hanno assolto la famiglia. Ovviamente i genitori del ragazzo offeso non si sono sentiti tutelati e trattati con giustizia e hanno proceduto. E quindi qual è stato il ragionamento della Corte di Cassazione? La Corte di Cassazione, oltre ad avvalersi dell'articolo 2048 del nostro codice di procedura civile, che parla appunto della responsabilità dei genitori in fatto educativo, si è riferito invece a una cosa precedente più fondamentale, che è la Costituzione italiana. In modo particolare l'articolo 30 della Costituzione. L'articolo 30 è molto breve, il primo comma è una riga, dice così: è dovere e diritto dei genitori istruire, mantenere, educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Ecco, se noi comprendiamo con una certa chiarezza questo comma dell'articolo 30, ripeto, della nostra vigente Costituzione, capiamo che i genitori hanno non soltanto il diritto, e poi spiegheremo anche cosa vorrà dire, ma in primo luogo hanno il dovere di educare i figli. Ebbene, la Corte di Cassazione come ha ragionato? Ha ragionato in questo modo: è vero che i genitori del ragazzo colpevole non erano presenti alla partita, ma se il ragazzo colpevole, addirittura durante una pausa del gioco, quindi non nella concitazione di un'azione per cui uno viene spinto, viene anche incitato, eccetera, ma a mente fredda, diciamo, gli viene la voglia e la forza di colpire con la testa la bocca dell'avversario, vuol dire, così ragiona la Corte di Cassazione, che quel ragazzino minorenne non aveva dentro di sé valori che dovevano essere stati trasmessi dalla famiglia, valori per esempio quali quello dell'accettazione dell'avversario, dello scendere in campo per fare un gioco in modo pacifico, eccetera. Quindi la Corte di Cassazione ha emanato una sentenza che fa diritto, fa legge, insomma fa testo, in cui la colpa della famiglia è riconosciuta fin a che il ragazzo non diventa maggiorenne, perché la famiglia non ha educato per tempo in maniera continuativa il ragazzo ad assumere i valori di una convivenza civile. La colpa del figlio ricade sui genitori, biblicamente a rovescio. Esattamente, insomma, no? Sì, la colpa del figlio ricade sui genitori. Che età aveva questo ragazzo? Quando... Doveva 12 o 13 anni. Comunque, quindi comunque non imputabile. Esattamente, sotto i 14. Il ragazzo non solo, ma la corte parla fino alla maggiore età. Mm-hmm. Quindi fino a 18 anni la famiglia sa che deve continuare ad alimentare questo suo processo educativo nei confronti. Se ne avesse avuti 16, il ragazzo era comunque imputabile. Per questa stessa ragione, perché il dovere della famiglia non finisce. Ecco, ovviamente questa sentenza appunto ha fatto discutere, ma soprattutto fa molto riflettere chi è deputato anche alla formazione delle famiglie, delle coppie, eccetera, chi in genere tratta di educazione, per far capire queste cose, perché non si può scherzare. Il problema educativo non è un optional. Cioè il genitore intanto provvede al cibo, al vestito, eccetera, e poi se ne ha tempo e voglia anche educano. L'educazione è messa alla stessa stregua del mantenimento. E ora c'è anche un'altra riflessione da fare. La famiglia non può dire: ma il ragazzo va a scuola, ci pensi la scuola, non so, dell'infanzia, elementare, media, eccetera. No, il dovere di educare è diverso dal dovere di istruire. L'istruzione è compito delle istituzioni scolastiche, ma l'educazione è assai di più dell'istruzione. L'educazione riguarda i valori. Certo che anche i maestri, gli insegnanti in tutti gli ordini dei gradi fino all'università devono anche educare mentre istruiscono, ma questo non esonera assolutamente la famiglia dal suo compito, ripeto, costituzionale, di esercitare continuamente il suo diritto e dovere ad educare. Tra poco ci torniamo, perché mi è venuto in mente un episodio a cui forse questo ragazzino si era ispirato. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. So di vivere in simbiosi con gli applausi della gente che mi ascolta e non mi sente, coi giudizi e le paure di chi sa che sono pure un pago centrica e a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire di essere l'unica. Non seguo la moda e non sono consumista, non distingo una scoda da un appunto, da una fiesta corro anche se questo vento non mi porterà mai più in alto, perché vivo solo quando amo. vedete perché sono qui davanti, non mi giudicate male perché i riflettori spenti, sono fragile anche timida, ma non per questo stupida, e dopo il palcoscenico una vita vera ancora non ce l'ho. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata dal mondo della scuola col professor Lino Sartori, stiamo parlando di educazione a partire da una sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato due genitori per un atto di violenza gratuita commessa da un loro figlio quando aveva 12 anni, una testata in faccia ad un avversario durante una partita di calcio a gioco fermo. Ciò che successe, professor Sartori, esattamente 6 anni e mezzo fa, finale dei mondiali Italia-Francia, la famosa celeberrima ma ormai testata di Zidane al nostro Materazzi, è una testata che è diventata imitabile ed imitata purtroppo. Ah, certamente, sì, qui ci sarebbe tutto il ragionamento da fare sugli esempi degli adulti, soprattutto sui cattivi esempi che fanno scuola, sì, certamente. Cosa accade poi? No? Questi esempi, questi fatti, essendo poi trasmessi, ritrasmessi, ripetuti, commentati e perennemente consegnati alla visibilità, perché chiunque oggi può andare in internet e rivedersi quelle scene. Ecco, cosa succede? Questi fatti creano, soprattutto nella persona giovane in crescita, creano una distorsione fra ciò che è realtà e ciò che è finzione. Per cui il bambino, abituato a vedere centinaia e centinaia di volte sul video certe azioni, non immagina più che un conto è il teleschermo, un altro conto è la realtà quotidiana, la strada, il campo di gioco, la scuola, l'ufficio, eccetera. E quindi, quando si trova in situazione reale, non ha più dentro di sé quel campanello d'allarme che gli dice no, fermati, attenzione, che un conto è scherzare, un conto è fare un videogioco, altro conto invece è assumere certi comportamenti. Ecco, per cui qui c'è la responsabilità tremenda del mondo dello sport, degli adulti, della politica, insomma in genere il mondo degli adulti, con i propri cattivi esempi. E qui, se volete, si potrebbe riflettere parecchio sulla responsabilità della società adulta nei confronti dell'educazione, perché sì, è compito, diritto, dovere della famiglia, ma della comunità, perché una persona non vive né da sola né solo in famiglia, ma vive nella comunità. Ecco, qui vorrei, casomai, poi se c'è tempo, riflettere sul fatto che gli adulti non intervengono quasi più, ad esempio, a richiamare gli adolescenti quando, che ne so, per strada commettono un atto vandalico o un'azione violenta. Ecco, gli adulti hanno vergogna, hanno paura, ma casomai ci ritroveremo. C'è anche un altro rischio a proposito delle immagini, no? Che una scena qualsiasi, non solo questa di Zidane, vista e rivista, si consumi e perda valore, perda anche chi la vide, insomma, che la ricorda di averla vista in diretta, fece un impatto emotivo. Già la seconda volta era quasi abitudine, per cui si svaluta, no? Sì, ma certamente il fatto di poter rivedere sul teleschermo certe scene, come diceva giustamente il mio interlocutore, toglie quell'impatto emotivo esistenziale che ognuno di noi prova quando vive concretamente la vita. Insomma, è come quando io andassi al cinema a vedere un film per la terza, quarta volta, le sensazioni, le emozioni dopo la seconda, terza, non sono più quelle che ho visto nella prima volta, per cui diventa come l'acqua che si decanta. All'inizio è fredda o calda, salata, con più o meno minerali, a forza di farla scorrere, no, davanti ai miei occhi, in questo caso, l'acqua, la scena si decanta e ognuno di noi la beve come se fosse cosa neutrale. Tutto diventa uguale, diventa possibile, scompaiono le diversità e quindi anche le gravità tra una situazione e l'altra. Veniva in mente, la citavo prima fuori onda, una vignetta in cui 30 anni fa il bambino prendeva una nota a scuola e i genitori lo rimproveravano davanti all'insegnante. Nel 30 anni dopo, stessa nota, ma chi viene rimproverato è il professore e non più il bambino. Qui entra in gioco anche la questione della libertà, cioè che sembra che negli ultimi tempi educare significa lasciare liberi i figli di fare quello che vogliono. Esattamente, sì, e così non dovrebbe accadere. Per continuare continuare su questo tema, propongo un'altra situazione. Allora, se il ragazzo a scuola, in qualunque ordine e grado di scuola, viene richiamato, come è stato detto poco fa, la famiglia spesso prende le difese del ragazzo e in maniera molto frequente, a prioristica, condanna l'insegnante. Però attenzione, c'è un'altra situazione. Quando lo stesso figlio al pomeriggio va a fare pratica di sport, dove tutti quanti possiamo capire, no? Gli allenatori, i coach, i mister, i trainer usano spesso metodi poco educativi che a scuola difficilmente si tollererebbero. Bene, quegli stessi genitori approvano in pieno il linguaggio, il modo di fare che gli allenatori hanno. Perché? Perché lì c'è un obiettivo concreto davanti, cioè il vincere, la competizione. Allora, quello che è drammatico ed è difficile da tollerare è che se l'obiettivo diventa pratico, tutto è tollerabile. Se l'obiettivo, come a scuola, è invece la formazione della persona e l'educazione, allora la famiglia non sopporta minimamente che il loro cucciolo, il loro pacchettino venga in qualche maniera sollecitato da modi decisi. Certamente non devono essere mai maleducati, ma da modi decisi da parte degli educatori. Ecco, occorre riflettere su questo, perché la famiglia in questo caso assume metri e metodi completamente diversi fra di loro. Senza tornare ai tempi delle bacchettate sulle dita, certo. Però forse c'è una via di mezzo, no? C'è la via di mezzo, sì, che è questa. Ripeto sempre, da parte del mondo degli educatori, la correttezza sia nel linguaggio sia nelle azioni, però la correttezza deve sempre essere abbinata anche alla chiarezza, alla fermezza, alla decisione. Certamente occorre avere la pazienza, perché non sempre al primo tentativo l'azione arriva al metodo e all'obiettivo che si voleva, però a un certo momento bisogna parlare con chiarezza sia ai bambini, sia agli preadolescenti e agli adolescenti, perché altrimenti si veicola l'idea che tutto diventi possibile e basta invece andare, per esempio, anche soltanto nel mondo del lavoro e ci si rende conto che non tutto è possibile. Faccio solo un esempio: il ritardo non può essere una cosa sempre tollerabile. Se si è in ritardo, si è in ritardo ed è colpa, e quindi bisogna imparare a gestire il tempo. Ultima pausa, poi torniamo ad affrontare altri aspetti di questo argomento. Dal mondo della scuola. Feels like home. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola col professor Lino Sartori. Abbiamo iniziato da una sentenza della Corte di Cassazione, i genitori condannati per un atto di violenza commesso dal figlio, genitori che hanno il dovere di educare come dice la Costituzione, ma c'è anche il diritto di educare, no? Sì, ecco, appunto la sentenza fa capire che non soltanto la famiglia ha il dovere, ma appunto anche il diritto. Perché questo? Perché, ecco, non dobbiamo dimenticare che lo Stato italiano, prima di essere Stato, è Repubblica. È una cosa diversa. La Repubblica vuol dire un'organizzazione che riconosce tutta una serie di diritti e doveri ai cittadini prima ancora che vengano istituite le forme del governo. In poche parole, io individuo, come ogni individuo, ogni persona, la famiglia, le associazioni, ecco, hanno diritti che vengono prima del fatto che noi abbiamo un Parlamento, abbiamo un Presidente della Repubblica, abbiamo una regione, eccetera. Bene, tra questi diritti che la persona e la famiglia hanno e che vengono riconosciuti, c'è il diritto ad educare. La domanda è questa: in concreto, questo diritto in Italia esiste o non esiste? La mia risposta chiarissima è questa: questo diritto non esiste ancora. Non a caso l'Unione Europea negli ultimi 10 anni ha condannato per 3 volte l'Italia perché non garantisce ancora il rispetto di questo diritto. Dove si fonda questo diritto? Si fonda nell'articolo 33 della nostra Costituzione, che ha 2 parti, una delle quali è molto nota e molto discussa, un'altra invece lo è meno. La parte più nota è questa, no? Dove si dice, sempre nell'articolo 33, che gli enti e i privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Ecco, questa frasetta senza oneri per lo Stato dal 1946 continua a destare dissensi in Italia. Basterebbe però ricordare una cosa soltanto che quando fu proposta appunto nel 1946 e fu votata e fu accettata da tutti coloro che scrissero la nostra Costituzione, tra parentesi ricordo che la nostra Costituzione è il frutto di un elevatissimo accordo, non compromesso, accordo fra le 3 principali visioni del mondo, qualcuno dice le ideologie, ovvero l'ideologia o visione del mondo cristiana, quella liberale e quella socialcomunista. Bene, tutti e 3 hanno convenuto su questo testo. Ecco, colui che lo scrisse, il celebre economista Epicarmo Corbino, liberale di formazione, commentò questo pezzo dicendo: attenzione, senza oneri per lo Stato non vuol dire che lo Stato non debba dare dei contributi finanziari, ma vuol dire che i privati non possono pretendere in ogni caso che lo Stato paghi le scuole che loro fondano. Ma se lo Stato, quando vede che una scuola cosiddetta privata, dal 2000 non si chiama più privata ma si chiama paritaria, funziona e rispetta le leggi dello Stato e fa un servizio pubblico, lo Stato può benissimo intervenire, secondo l'Unione Europea deve intervenire a finanziare. Bene, allora c'è un altro comma che invece è meno noto, che è questo. Il comma dice che lo Stato, quando riconosce queste scuole paritarie, deve evitare che ci siano discriminazioni di ogni tipo, sia culturale, sia gestionale, sia finanziario, tra le famiglie e i giovani che frequentano le scuole gestite dallo Stato e le famiglie e i giovani che frequentano le scuole gestite invece da altri enti. Ecco, cosa succede allora? Succede che il diritto della famiglia cade quando un genitore che vuole esercitare il suo diritto di scegliere quale tipo di educazione dare ai figli si rende conto che deve pagare 2 volte, perché in ogni caso il genitore paga, le cifre ultime sono per ogni lavoratore italiano attuale che versi regolarmente i contributi, si pagano 3.000 euro l'anno per la scuola gestita dallo Stato, anche se io non mando i miei figli lì. In più però, se io voglio esercitare quel diritto di cui parlavo poc'anzi, devo pagare anche la retta che giustamente un istituto paritario, non avendo fondi pubblici, deve chiedere per poter andare avanti. Allora, morale della favola: finché non si arriva alla totale parità anche finanziaria, tra istituti pubblici gestiti dallo Stato e istituti pubblici gestiti da altri enti riconosciuti, la famiglia, ahimè, non sarà mai nelle condizioni di avere il diritto di scelta educativa. La laicissima Francia è molto più avanti. Non solo, addirittura la Cina. In Cina conosco delle scuole gestite da istituti salesiani, per esempio, dove è vietato che i salesiani chiedano una retta alle famiglie. È lo Stato che paga. Questo accade in tutti i paesi del mondo, esclusa la nostra una volta cattolicissima Italia. E qui ovviamente mi assumo la responsabilità di quanto sto per dire, una colpa pesante, tremenda, storicamente inspiegabile, cade sui cattolici che per 50 anni hanno avuto il monopolio della gestione dello Stato. Ripeto, sono disposto a discutere con chiunque di questa mia posizione, che però trova suffragio nei testi costituzionali e, ribadisco, recentemente addirittura anche nell'Unione Europea, la quale continua a ritenerci un paese cattivo perché non garantiamo la libertà di scelta educativa. Qui c'è poco da discutere. Questo è un principio giuridico. Tra l'altro ricordo che il ministro italiano che nel 2000 riconobbe appunto la parità delle scuole che una volta si chiamavano private è un ministro di origine comunista, Berlinguer, il quale nello spiegare in Parlamento come mai lui voleva l'approvazione di questa legge che fu accettata, ecco, ricorse proprio al comma della Costituzione, l'articolo 33, comma quarto, che vi ho appena riassunto. E allora, questi sono temi sui quali evidentemente sarà bene tornare anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ringraziamo il professor Sartori per l'intervento, come sempre, molto profondo e interessante. Alla prossima occasione. Grazie io a voi e a tutti gli auguri di una buona stagione educativa. Grazie a Didaici Regia, a voi per l'ascolto, da Mirko Cavallin, appuntamento con il mondo della scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.